Kellogg. Cronache meridiane di Gianluca Nicoletti. Più di un'ora di tempo separa il furto in casa e lo sparo che ha ucciso il presunto ladro. Sulla tragedia a Serle, nel Bresciano, due versioni sembrano non combaciare. In carcere con l'accusa di omicidio volontario, Mirko Franzoni, 29 anni, meccanico, sotto shock, ribadisce la sua versione dei fatti. Ieri sera, rincasando, avrebbe sorpreso un albanese 26enne in fuga dopo il furto in appartamento. La lotta, un colpo dal suo fucile da caccia, la morte del presunto ladro. Ma gli orari sembrano non corrispondere, la scoperta del furto in casa risale all'ora di cena. È una notizia di cronaca come tante, ma combacia tantissimo con altre notizie che negli ultimi mesi abbiamo avuto modo di leggere ma anche di commentare. Cosa è accaduto nel Bresciano? Ma qualcuno ha avvertito, come lo vedo io, come la so io, non voglio anticipare quelle che saranno poi le indagini, ma leggendo dai giornali quello che si deduce, come ha detto questa anticipazione, sono due versioni. Qualcuno ha avvertito questo giovane meccanico nella sua villa, che affaccia sulla strada, ci sarebbero dei rumori sospetti. Lui si precipita con degli amici e effettivamente c'erano due ladri in quella casa che saltano una finestra, fanno un salto di tre metri e si dileguano per i vicoli del paese. A quel punto, qui si divergono le due versioni, la versione del protagonista di questa vicenda, che è stato arrestato per questo e che hanno avuto una colluttazione con i due ladri, uno è fuggito e inavvertitamente gli è partito un colpo dal fucile da caccia. L'altra versione di testimone del paese, che corrisponde col fatto che l'albanese è stato ucciso un'ora dopo circa il tentato furto, e si è iniziata una sorta di caccia all'uomo lungo il paese, proprio come si vede nei film. L'hanno inseguito con il fucile in mano, poi alla fine, quando li hanno trovati in un posto da cui non potevano fuggire, mi sembra la periferia del paese, verso un bosco, è stato sparato un colpo e uno dei due albanesi è morto. Questa è la notizia, però io vorrei fare una riflessione con chi mi ascolta. Non anticipiamo i risultati, è una cosa per me chiusa in questo momento come lettura di questo fatto, ma vorrei allargarlo un po' alla riflessione di tutti voi. Se vi trovassi in una situazione simile, e più volte ne abbiamo parlato, non che trovate proprio sul fatto dentro casa vostra qualcuno che vi sta rovistando nelle vostre cose o che vi metta in pericolo, e quindi date mano all'arma che avete probabilmente in casa e sparate, colti da un momento di necessaria reazione di fronte a un pericolo che intuite ma di cui non sapete la portata, e gli sparate. No, voi freddamente vi accorgete qualcuno è entrato in casa, prendereste l'arma che avete e comincereste a cercarlo in giro per strada finché non lo trovate per poi sparargli? 800240024. Sono lo zio del ragazzo, siamo una famiglia pulita da 2000 anni a questa parte, abbiamo sempre fatto dei grossi sacrifici, è inutile che adesso abbiamo della gente che viene a irrompere nelle nostre case. Più bravo ragazzo di Scelle. Bravissime persone, bravissima gente. Bravissima famiglia, non brava, bravissima. Si attendono i risultati dell'autopsia mentre i carabinieri verificano tabulati telefonici di quelle drammatiche ore e analisi balistiche. Io invidio chi può dire che da 2000 anni la propria famiglia è una famiglia rispettabile. Io non so nemmeno se lo era una settimana fa la mia famiglia, una famiglia rispettabile, comunque ognuno ha le sue certezze, questo mi fa molto piacere. Come sempre il quadro combacia, a compiere atti del genere sono sempre brave persone, indubbiamente brave persone, onesti lavoratori, persone che nella lettura più comune, giustificatoria, perché già in rete ci sono persone che stanno facendo sottoscrizioni, qualcuno propone una medaglia d'oro per questo ragazzo, altri vogliono raccogliere i soldi per pagargli una probabile cauzione, altri ancora chiedono la grazia, comunque lo stanno acclamando come un eroe. È realmente un eroe chi impugna il fucile e inizia la caccia d'uomo per uccidere una persona che viola la sua proprietà, che comunque ha superato nella massiva e frequente distribuzione nel nostro paese di questi reati, di persone che entrano in case private per fare razzia, per fare furto, e sembra godano di una totale impunità. Pochi giorni dopo sono nuovamente liberi, o perlomeno si ha l'idea che siano facilmente liberi dopo aver fatto cose del genere. Beh, colui che prende il fucile e non spara sul fatto mentre lo coglie in flagranza, no, Esce e fa la caccia all'uomo, comincia a cercare l'uomo, come in quei film di frontiera che si vedono nella provincia durante la depressione americana. C'è sempre qualcuno che inizia una caccia all'uomo, in questo caso è sempre un nero a essere la vittima, la lepre che scappa. In questo caso è toccato un albanese. Beh, voi lo fareste? Voi se entraste a casa, trovaste la casa devastata, immaginate che nel raggio di qualche centinaia di metri ci sono i ladri, avete un fucile, mettereste la cartuccia nel fucile e scendereste per strada a cercarlo? Una volta che l'avete trovato, cosa fate? Gli sparate? Intimate l'alt? Lo arrestate? Lo prendete e lo portate alla polizia? Oppure lo freddate, perché così diventate simbolo di un atto di giustizia? 800240024. I furti nel suo terreno erano diventati sempre più frequenti. Non ce la faceva più Giuseppe Caruso, il pensionato 69enne, che la scorsa notte ha sparato e ucciso un presunto ladro, Roberto Grasso, di 26 anni, che assieme ad un complice riuscito a scappare, si era introdotto nel suo fondo agricolo. È accaduto a Annunziata, a frazione di Mascali, in provincia di Catania. In questo appezzamento era sotto sequestro lungo la strada provinciale che conduce a Puntalazzo. La notte si stava armato in questa baracca nella speranza di cogliere i ladri sul fatto. All'arrivo dei due la scorsa notte ha intimato l'altra, ha raccontato ai militari e, sostenendo di aver agito per difendersi, ha aperto il fuoco con la pistola calibro 7.65 che deteneva legalmente anche se non aveva il porto d'armi. Due colpi hanno centrato in pieno Grasso, un terzo l'ha colpito di striscio. Il 27enne, conosciuto nella zona, è rimasto gravemente ferito. Un altro episodio dei tanti che ormai si stanno susseguendo. Leggo qualche sms. Proposta di legge: sostituire la ministra Chienge con quel bresciano. Attenti agli albanesi, questa è una proposta. Non voglio farlo scandalizzato, è politicamente corretto. Io sto registrando una reazione di fronte a un fatto che secondo me è indicativo di uno stato d'animo in cui c'è una sorta di furor di popolo molto esaltato. È facile che diventi un eroe una persona che scende per strada e comunque con un fucile si fa giustizia da solo. Non è un eroe, ma fatto bene. Solidarietà, mi scrive un altro. Fa più rumore un albero che cade e una foresta che cresce, come per dire questo è un episodio limite. È un assassino, sarebbe stato anche negli Stati Uniti dell'Ottocento, dice Pietro. Dipende come, dove, in che contesti, soprattutto verso chi avrebbe rivolto il proprio fucile. Una medaglia dovrebbero dargli al ragazzo, si faccia promotore lei. Saluti Antonio. Sì, ha fatto bene, se avessi il coraggio lo farei anch'io. Vedete che quello che oggi scrive qualche quotidiano, che crescono i gruppi sulla rete, corrisponde a realtà. In pochi minuti già sto raccogliendo. Io propongo il meccanico per una medaglia al valore, Ruggero. Altri messaggi più o meno dicono queste cose, molti dicono la medaglia, bisognerebbe dare una medaglia a questa persona. Luciano, buongiorno. Buongiorno Nicoletti. Il suo punto di vista. Dottor Nicoletti, io le dico subito che penso di essere una persona pacifica. Sono un credente, per cui non è giusto accoppare un altro, certo. Però le dico che in casa mia c'è una 38 special, è una doppietta ereditata ultimamente. Ma ci fai i botti a Capodanno, scusi, se è tanto credente. No, guardi, io l'ho preso, io non sono uno di quelli che salterò in cortile, in casa, corro dietro al genere, no. Però in casa, io quando dormo, soprattutto a notte, e capita spesso dove abito io, che vengono in casa, scavoli loro, io gli tiro. È la cosa che... Ma lei ha vicini di casa, il suo appartamento è una casetta isolata o al di là delle sue... È isolata, praticamente isolata. Quindi lei può sparare tranquillamente anche con la 38 senza sfondare un fondello e entrare in casa di un vicino? No, non corro questo rischio, non corro assolutamente questo rischio, però è proprio per l'autodifesa, guarda, io ho veramente paura. Cosa tiene carico vicino al letto? La 38 o il fucile da caccia? Allora, io tutte le sere sistematicamente la tiro fuori dalla cassaforte dove è custodita e la appoggio sul comodino, oltre che avere i vari allarmi così, perché quello che non sopporterei è perché dovrei... Se non mi facessero male, me lo scrivessero prima, guarda, vengo a rubare... Lei ha un sonno leggero, quindi confida sul fatto che nessuno possa entrare e prendere la pistola e a sua volta usarla contro di lei. No, è impossibile entrare dove dormo senza che me ne accorga, perché ci sono degli allarmi veramente validi. Dorme solo, per sapere, Luciano. Dorme solo. Nicoletti, mi scusi, sa? Quello che volevo dire io è questo, che non è giusto ammazzare nessuno, questa è la prima cosa che dobbiamo dire. Però se capita... Se il caso capita, una persona normale, che è sempre stato un padre di famiglia, una buona persona, riconosciuta da tutti, che dovesse... Sì, ma lei, Luciano, a casa vive solo, dorme solo, c'ha persone accanto a lei? Solo. Ah, beh, quindi non c'ha problemi. Quindi, no. Lei dove sparerebbe? Sparerebbe a uccidere o sparerebbe a ferire? Questo gli glielo posso giurare sui miei che non ci sono più, tirerei alle gambe. Vabbè, con una 38 prende un'arteria femorale, muore sul colpo comunque. Va bene, Luciano, grazie. Riccardo, buongiorno. Spenga la radio. Buongiorno Gianluca, chiamo da Ferrara. Guarda, io sono fresco di un furto questa notte, cioè, è appena andata via la polizia dal nostro ufficio, ci hanno fatto un furto, noi tra l'altro, io specificatamente in ufficio faccio il commercialista, sono anche armato, però ti dico, che arma tiene? Che arma tiene? Riccardo, scusi, no, sparare, statisticamente non avrei mai il coraggio di Riccardo, mi sente, mi ascolta? Non mi sente, Riccardo. E ti dico, ringrazio che non sono venuti a casa, sono venuto in ufficio, dopo è chiaro che ci rimani male. Mi sta ascoltando Riccardo? Mi ascolta? Dimmi tutto. No, no, voglio sapere che tipo di arma ha, per avere una statistica su... Ma guardi, una Beretta 9x21, cioè un'arma piccolina che detengo da quando vado al tirassegno, ma non sono proprio nemmeno in grado, vado una volta all'anno per rinnovare il permesso. Quindi non sa usarla con destrezza, non potrebbe nemmeno usarla in caso Ma io non so proprio fare neanche usarla, l'ho tenuta perché era di mio padre e quindi... La usa, è come non avercela. Non averla, cioè, infatti bene. Non la tengo nemmeno a casa, la tengo in ufficio. Vabbè, allora... cassaforte, caricatore da una parte e arma dall'altra, cioè proprio non la tiene come ricordo di famiglia, non la potrebbe usare. Giovanna, buongiorno. Buongiorno, buongiorno Nicoletti, io volevo portare la mia esperienza. Io abito da sola in una zona un pochino appartata e tornando da lavorare l'anno scorso, e lavoro in una pizzeria, quindi faccio le 2 lettere di notte. Tornando a casa, e cominciava anche a nevicare, la casa era tutta aperta, finestre rotte, una villetta, finestre rotte, eccetera eccetera, e dentro era tutta devastata, tutte le robe per terra, pestate col fango, hanno portato via non c'era più nessuno soldi. Però non c'era più nessuno, hanno portato via tutto. E la mia reazione è quella che non si uccide nessuno, non avrei mai avuto la... non ho armi, però? Eccetera, eccetera. Però io ho chiamato i carabinieri e non mi sono sentita protetta da neanche... E quindi la sintesi, se avesse una pistola sparerebbe, gli correrebbe dietro, li andrebbe a cercare? No. Non li andrebbe a cercare? Però i carabinieri non sono neanche intervenuti. Perché non avevano, hanno detto che non avevano le ruote per la neve. Vabbè, questo sono problemi, può succedere. Mica potevano, con le ruote che girano a vuoto, spingere anche la macchina, i carabinieri, non può pretendere tanto. D'altronde non era successo niente di cruento, quindi saranno venuti con calma. Elisa, buongiorno. Buongiorno Nicoletti. Io sono un incaricato di pubblico servizio e volevo solo dirle che non mi sognerei mai di correre dietro qualcuno e sparargli alle spalle. Però gira armata? No, io sono armata, sono un incaricato di pubblico servizio. Che arma porta con lei? Qual è l'arma d'ordinanza? L'arma d'ordinanza è a scelta, comunque vanno oltre 7,65. Io ho una 9x21 Parabellum, una Glock. E beh, ha scelto un'armettina mica male, ha fatto una buona scelta. Sì, è l'arma più fighetta che c'è adesso, la Glock, tutti quella delle stragi in America, quelli che tutti lo so, io ce l'ho da 12 anni perché è un'arma che tendenzialmente non si inceppa. Certo. E, ho provato vari tipi di armi e oltretutto prima di fare questo lavoro facevo a livello sportivo. E per cui... Ma lei si allena con la Glock, la saprebbe usare, saprebbe estrarla e sparare in maniera veloce? Sì, io ho usato armi per 20 anni, ribadisco, per cui facendo gare ho usato dalle pistole e fucili. Allora, se lei dovesse sparare a un uomo per strada, dove si mira? Dove si tira un uomo, secondo lei? Non lo so, le domando. Spero che non mi capiti mai. Se dovesse capitare? Se dovesse capitare, io sono stata coinvolta in una sparatoria, non è una bella cosa. Comunque si mira al tronco in genere. Sì, perché almeno si becca, perché dice miriamo alle gambe. Le gambe è un bersaglio difficile. Però ribadisco... Uno mira al tronco e prende in testa, alla fine è così. Pronto? Dico, uno mira al tronco e per il normale rinculo dell'arma lo colpisce in testa. Fermiamoci un attimo, do il traffico, continuo con lei perché è interessante. Almeno una persona informata che ha partecipato a una sparatoria ha qualcosa da dire. Ha visto 4 ladri nella sua tabaccheria e accecato dalla rabbia e dalla paura ha fatto fuoco con la pistola, una calibro 9 semiautomatica regolarmente denunciata, uccidendo uno dei malviventi. La procura chiede 14 anni di carcere per Crocefisso Martina, 46enne di Torchiarolo, vigilante in servizio a Campi Salentina, accusato dell'uccisione di Marco Tedesco, 28 anni. Il giovane aveva appena commesso una rapina al bar di una stazione di servizio sulla superstrada Lecce-Brindisi insieme ad altri tre complici. Scattato l'allarme, sul posto erano intervenute due guardie giurate, fra cui proprio Martina. 800240024, altri episodi di persone che hanno sparato, anche persone che avevano arma autorizzata, autorizzazione a reagire, però bisogna poi vedere, fare i conti con la legge che in questo è piuttosto restrittiva, non è così semplice, così immediato, non è che si possa sparare addosso a una persona, ci vogliono delle circostanze che non prefigurino il reato di eccesso e legittima difesa. Su questo ci è maestra Elisa, una nostra ascoltatrice, ci ha chiamato poco fa, incaricata di pubblico servizio, che lei gira da vari anni con la sua Glock 9x21, ha partecipato a scontri a fuoco, però sa esattamente qual è la legge, vero Elisa? Esatto. Lei sa che non è che si può sparare. Legittima difesa è un'altra cosa. Quali sono le circostanze per cui lei può sparare a una persona? Cioè è lecito che usi la sua arma? Sì, devo in circostanze rispondere al fuoco. Quella volta che le è accaduto di avere un conflitto a fuoco, com'è stato? Ha sparato lei per prima o hanno sparato gli altri? No, io ho sparato in aria praticamente. Cosa era successo? Una rapina di notte a un negozio, in pratica, a studio. È riuscita, diciamo, a far allontanare, a sventare la rapina? È servito a qualcosa? Sì, è servito qualcosa. Io non ricordo molto di quello che è successo quella notte, perché poi è seguita un'aggressione, un tentato furto dell'arma. Ma quindi ha avuto proprio una colluttazione poi lei? Sì, il problema è che io non mi ricordo. È stato scioccante. Che è successo, perché poi c'è stata questa aggressione, trauma cranico e quant'altro. Comunque Elisa, lei è una donna con le palle veramente. Mi fa molto piacere sentire che esistono donne che comunque sanno difendersi. Grazie Elisa, in bocca al lupo. Sì. Vedo che si ancora gira con la sua Glock in tasca. Adesso mi dice in tonti, sto istigando la violenza. No, una donna che la rispetto, che si guadagna il pane facendo un lavoro molto duro, molto difficile e di grande responsabilità. Quindi ammiro molto Elisa. Marco. Buongiorno. Io proprio per rispetto e per i complimenti che faccio a questo agente, a questa persona, a questa donna, vorrei che ci fosse una legge di due righe che scrivesse che le armi le devono portare esclusivamente le forze dell'ordine e che nessun cittadino mai, ivi compresi i delinquenti, fossero mai autorizzati a portare un'arma. Lo sa perché sono d'accordo con lei? Lo sa perché sono d'accordo? Molte volte le armi degli delinquenti sono regolari e poi fanno degli altri giri. E questo aiuterebbe anche a combattere la microcriminalità e forse anche la criminalità. Marco, lo sa perché sono d'accordo con lei? Perché ho fatto varie trasmissioni su questo. Portare un'arma, impugnare un'arma, usare un'arma è una cosa che richiede un addestramento continuo e costante, altrimenti l'arma diventa pericolosa soprattutto per la persona che la usa, ma anche per le persone che nulla hanno a che fare magari con il teatro del crimine che si sta svolgendo in quel momento. Quindi è una grossa responsabilità. Anch'io ci andrei calmo sul dire mi tengo un'arma in casa, mi tengo un'arma addosso, e vengo da una famiglia in cui hanno sempre avuto armi, erano cacciatori, ex combattenti, quindi non c'ho il ribrezzo per l'arma da fuoco, è anche un bello oggetto. Però è meglio vederlo nelle vetrine, vederlo nei musei, vederlo nei film, nelle riviste specializzate. Avercelo in mano è una grossa responsabilità. Roberta. Ciao, sono Roberta. Io volevo dire che anch'io non porto armi, non ho armi, sono contraria ad avere armi. Anzi, dormo con la porta aperta, perché dico se devono venire a rubare, almeno non mi spaccano i vetri. Però quello che io voglio dire è che sono molto indignata da quello che ho sentito dire prima alla radio, a parte il fatto che quello che ha detto siamo una famiglia per bene da 2000 anni. Vabbè, adesso facciamo la morale agli altri, ognuno per il suo pensiero. Ho uno spazio talmente ristretto che se do spazio anche all'indignazione non porto nessun elemento. Claudio, buongiorno, mi scusi, è Claudio. Nicoletti, buongiorno. Buongiorno. Allora, io sono velocemente, sono un ex ispettore di polizia, addetto a scorte di sicurezza, ero la scorta di Falcone. Quindi la salunga lei. Ecco, io sparavo tutte le settimane 200 colpi a settimana e da quando sono andato in pensione ho detto basta, io con le armi non c'entro niente. Però intanto che sono andato in pensione tre volte sono entrati in casa, due volte mentre dormivo, una volta mi ha buttato giù la porta. E lei che ha fatto? Adesso ho comprato un'arma, il primo che entra a casa mia lo secco in fronte. Cosa ha comprato? Cosa ha comprato il bello? Ah, io ho una 9x21 che diciamo è... Ma di che marca? Che di che marca? Beretta. Ah, la classica, sì. È rimasto fedele all'arma che aveva in dotazione. Sono rimasto fedele. Ah, un'altra cosa arma. Importante, subito dopo, siccome poi dopo sicuramente dovrò affrontare un processo, eccetera, sarò io a chiedere aiuto a tutti i cittadini onesti per aiutarmi ad affrontare le spese. È chiaro, Marco, è chiaro. Marco, non c'è Giuseppe. Pronto, buongiorno. Giuseppe. Senta, io ritengo che in flagranza di reato è proteggere la propria proprietà privata è d'obbligo. Però rincorrerli e ad ammazzarli è un assassino, non è. Quindi lei come si comporterebbe? Lei innanzitutto ha un'arma. Ma io allora in casa lo prendo in casa e lo posso ammazzare o ammazzo in casa. Ma lei ha un'arma in casa? No, non c'ho un'arma. Allora con cosa lo ammazzo? Ammazzarlo anche con le mani se mi è possibile. O uso oggetti contundenti? No, non uso perché non uso dei oggetti contundenti. Sembra facile ammazzare una persona con le mani, non è mica così. No, chi lo sa fare lo e come si fa? Facile. No, me lo insegni che non lo so. Gli spezzo il collo. Vabbè, mica il coniglio, cioè. No. E poi bisogna vedere se sono ladri, perché molti ladri di questi sanno. Ma qual è la tecnica per spezzare quando il collo? Quando hanno una reazione scappano. No, scusi Giuseppe, come si fa a spezzare il collo a un essere umano? Lo vedo fare nei film. Bisogna chiedere a un esperto. Io qua a Napoli sono tu un esperto a spezzare il collo. È un'informazione. Macellaio, come si spezza il collo? Coniglio, sono capace anch'io, grazie. Coniglio sì, però. Va bene. Massimo. Sì, insegna arti marziali. È così facile spezzare il collo a un essere umano? Come diceva lui? Sì, è molto facile spezzare il collo, ma bisogna essere molto allenati. Io insegno da una vita arti marziali. Lei sarebbe capace? Assolutamente sì, però il problema è meglio prendere del cretino del fesso e andare via e chiedere anche scusa e non mettere niente. Lei cosa si porta dietro oltre il suo corredo di arti marziali? Una Smith Wesson in calibro 410 a pallini, nuova pistola. Per sparare ai serpenti viene usata di solito? No, quella è un 38 caricata a palline che non serve assolutamente niente. Ah, questa è specifica? Questa è specifica, hanno incominciato a farla, prima la Taurus, l'hanno chiamata giudice. Ma cosa ci si fa con questa pistola? Dove si spara? Questa pistola ha il vantaggio enorme che essendo a palline con la canna non uccide, riesce a colpire a distanza di 2 metri. E dove si spara? Qual è il bersaglio? No, è il bersaglio grosso. Benissimo, la novità del giorno è la pistola a palline, almeno non andate in galera e non uccidete nessuno. A domani.